in primo piano. Sono due le notizie del giorno. La prima è quella della non firma del presidente Napolitano sulla legge sul lavoro e poi l'analisi ovviamente politica che continua. Bloccata la legge sul lavoro, questo è il titolo di apertura del Sole 24 Ore. Anche il Corriere, lavoro, legge da modificare, La Stampa, lavoro, lo stop di Napolitano, per l'Unità rispettate il lavoro, così viene definito il no del Quirinale. Lavoro, Napolitano non firma la legge per il Messaggero, mentre per il Manifesto infortunio sul lavoro, e c'è la foto del ministro Sacconi in questo caso, quindi il ministro del lavoro. Si parla ovviamente della non firma del Quirinale, mentre chi sceglie la politica è Repubblica nel PD, assedio a Bersani. Guardate il titolo di Libero, al PD non piace la gnocca. Questo è il titolo per giustificare il fatto che su 186 consiglieri regionali eletti nel PD, 163, dunque la gran maggioranza, sono uomini. E poi dicono che il PDL umilia le donne. Al PD non piace la gnocca. Questo è Libero. Il Giornale invece ha un'intervista shock che farà certo parlare al procuratore di Milano Forno, uno che si occupa di abusi sessuali da anni. Preti pedofili, allarme a Milano. Poi la vedremo, perché Vittorio Feltri ha deciso di aprire con una pagina e un'intervista sicuramente shock. Allora, Napolitano ferma la legge sul lavoro, Dino Pesaro le spiega cosa è successo a pagina 3 del Sole 24 Ore, vale a dire un Napolitano che ha esaminato con attenzione e scrupolo il testo licenziato in via definitiva al Senato il 3 marzo dopo 2 anni di lavoro. Che cosa ha contestato soprattutto Napolitano non apponendo la sua firma? È la prima volta, tra l'altro, che lo fa. 2 articoli in particolare, quello che prevede il ricorso all'arbitrato in sostituzione del giudice nelle controversie di lavoro e quello sulla responsabilità per i danni da amianto riportati da lavoratori sulle navi statali. Ma certo, è il primo dei due, quello il tema dell'arbitrato che sostituisce i giudici nelle controversie di lavoro, che è quello che ha fatto più discutere, tanto che Epifani, per esempio la CGIL, ha detto ecco l'attacco all'articolo 18. Epifani oggi si profonde in una serie di interviste, 3, una alla Stampa, una all'Unità, una al Manifesto. Sulla Stampa, avevamo ragione noi, la legge è incostituzionale proprio sul punto dell'arbitrato, introduceva, dice Epifani, la possibilità che all'atto dell'assunzione il datore di lavoro chiedesse di rinunciare a percorrere la strada giudiziaria scegliendo sempre e comunque l'arbitrato. È il momento in cui, lo ha ribadito Epifani, questo è il punto su cui batte da tempo, è il momento in cui il lavoratore è più debole, quello della firma, e dunque è il momento in cui si potrebbero creare dei lavoratori cosiddetti di serie B condizionabili per tutta la vita, una cosa senza senso. Tra l'altro la posizione invece di Confindustria, pagina 2, l'abbiamo sentita anche in GR24, affidata al direttore generale Giampaolo Galli, che dice l'arbitrato è utile, è da difendere, subito vanno fatte le correzioni chieste da Napolitano. Massimo rispetto dunque per il Quirinale, ma auspichiamo che il Parlamento possa recepire le indicazioni, cosa che tra l'altro il ministro Sacconi ha detto, proporremo presto modifiche e auspichiamo un rapido esame in Parlamento circoscritto ovviamente ai nodi che sono stati segnalati dal Quirinale. Graffiante vieppiù Vauro nella prima pagina del Manifesto, nella sua vignetta, il DDL sul lavoro, Napolitano non lo ha firmato. Con tutte le firme che ha messo sulle altre stronzate avrà finito l'inchiostro. E mentre su questo tema Bonanni della CISL, accusato in qualche modo di avere voluto quella legge, dunque Enrico Marro sul Corriere della Sera dice è una vostra sconfitta. No, dice Bonanni, la CISL non sta in Parlamento, non ha fatto questa legge, non l'ha voluta, anzi fin dal primo momento ho criticato questa invasione di campo su materie che dovrebbero essere lasciate alle parti. Davanti alla legge comunque ci siamo subito impegnati a fare in modo che l'arbitrato, al quale siamo sempre stati favorevoli, fosse una scelta libera e volontaria del lavoratore. Infatti così è, e tra l'altro Bonanni dice: la CGIL, che si è comportata diversamente, avrebbe fatto bene a firmare la dichiarazione comune con noi, invece ha preferito tenere in piedi il problema agitando il fantasma dell'articolo 18, che in realtà non è in discussione con questa legge, senza accorgersi appunto che questo era già stato tolto di mezzo. Dunque Bonanni un po' critico con la CGIL, non è la prima volta. E, insomma, questa è la situazione per quel che riguarda la legge sul lavoro, che dunque Napolitano ha deciso di non firmare rimandando alle Camere per una valutazione diversa. A proposito di lavoro, è legato a questo, lo trovate su tutti i giornali, il Quotidiano Nazionale lo mette in prima pagina così: è un paese di finti poveri. Che cosa è successo? Lo leggo dal Sole 24 Ore. Sono state analizzate le dichiarazioni degli italiani da parte del Dipartimento delle Finanze, le dichiarazioni IRPEF presentate nel 2009, dunque relative al periodo d'imposta del 2008. Tra l'altro molto interessanti, perché il 2008, soprattutto nella seconda parte dell'anno, è quella dove c'è stato il primo impatto della crisi. Ebbene, il reddito medio degli italiani si ferma sotto i 19.000 euro. Oh, il Quotidiano Nazionale dice: siamo un paese di finti poveri. Io non lo so, certo che i dati fanno abbastanza scalpore. Gli italiani nel 2008 hanno dichiarato in media un reddito, in media, di 18.873 euro, versando all'erario un'imposta netta pari a 4.701 euro. Quanti sono quelli che guadagnano, denunciano redditi superiori ai 100.000 euro in Italia? Lo 0,95% della popolazione, poco meno di 400.000 contribuenti. Ragazzi, questi sono i dati, evidentemente siamo poveri, non so, finti, lo mette il Quotidiano Nazionale in prima pagina, tra parentesi, avrà ragione, chi lo sa. 10,7 milioni sono gli italiani della no tax area, quelli che non hanno versato l'imposta sulle persone fisiche, 10,7 milioni su 41 milioni di contribuenti. Molti, per esempio, sono nelle fasce di esonero fiscale, hanno fatto valere dichiarazioni, detrazioni tali da azzerare il debito tributario, insomma. Sotto i 35.000 euro il 90,4%, dunque oltre il 90% dei contribuenti italiani ha dichiarato meno di 35.000 euro annui. Uno su due dichiara meno di 15.000 euro, questo anche per la stampa. Siamo poveri, poveri. O finti poveri, chi lo sa. Intanto sul Foglio, sempre legata alla questione fiscale, il Foglio anticipa qualcosa. Ecco il fisco leghista in due tempi, disegnato dal Cavaliere da Tremonti. Allora, sappiamo che Tremonti dice: la riforma delle riforme, quella fiscale, ci vorrà del tempo ma bisogna farla. Il Foglio oggi dà qualche anticipazione, per esempio, innanzitutto sarebbe un via 20 settembre, cioè un Ministero dell'Economia di Tremonti pronto un po' a rintuzzare le euforie previste. Perché, dice il Foglio, a minori entrate devono corrispondere minori spese. Se per esempio oggi si attuasse un solo punto di riduzione della pressione senza un equivalente taglio alle uscite pubbliche, il semplice annuncio farebbe schizzare di un centinaio di punti il differenziale di rischio tra titoli di Stato italiani e Bund tedeschi. E questo Tremonti, dice, non lo consentirà, anche perché i mercati non sono del tutto stabilizzati, arrivano anche notizie pessime dall'Irlanda, per esempio. Dublino vuole una bad bank pubblica per ritirare 81 miliardi di euro di titoli tossici sul mercato. Ed ecco che allora, dice il Foglio, Tremonti si accinge un po' a frenare le attese di Palazzo Chigi, che vuole invece un po' accelerare il governo, cioè Berlusconi, nel promettere un taglio di tasse, anche perché, fa sapere da Tremonti, Sarkozy, che ha annunciato un taglio di tasse alle regionali, ha preso comunque una vagonata di voti contro, dunque non è che annunciare il taglio di tasse porta benefici elettorali per forza. Però ecco qui l'anticipazione: già a giugno, secondo il Foglio, Tremonti potrebbe annunciare un pacchetto intermedio che avrebbe effetto nel 2011. Di cosa si tratta? Si tratta dell'eliminazione in gran parte delle detrazioni fiscali, frutto di un sistema in cui lo Stato centralista a ogni legge finanziaria concordava qualche beneficio con le lobby. vale a dire di che cosa? L'obiettivo: concentrare le risorse su pochi maxi deduzioni, cioè abbattimenti dell'imponibile, per le famiglie in relazione al numero di figli e parenti a carico. Sarebbe insomma una bozza, una prima bozza di quel quoziente familiare che tanto viene annunciato negli anni, cioè tradotta brutalmente, pagare meno per chi ha più figli o parenti a carico, quindi più deduzioni, più detrazioni fiscali, e questa sarebbe l'anticipazione allo studio di Tremonti per Il Foglio. Lasciamo il tema lavoro, fisco, finti poveri o poveri veri, e arriviamo alla politica. La politica si interroga sulle intercettazioni. Alfano apre al dialogo sulle intercettazioni. Sul Corriere della Sera Francesco Verderami, parrebbe, da parte, ci sono vari virgolettati di Alfano, è una vera e propria intervista, ma non botta e risposta, intervista quelle stile all'americana, no? Un dialogo nel quale Francesco Verderami mette alcuni interessanti interventi del ministro Alfano. Non consentiremo di strumentalizzare le intercettazioni sull'altare di un aggettivo. Qual è l'aggettivo? Ora, nel testo della legge, è previsto che le intercettazioni sono possibili a fronte di evidenti indizi di colpevolezza. Questo evidenti, questo aggettivo, secondo Alfano, è quello che fa saltare tutto un possibile dialogo col PD. Dice: non ci faremo impiccare certo per questo aggettivo, ma certo entro giugno le intercettazioni vanno approvate. Cioè, basta fughe di notizie. C'è il principio sancito dell'inviolabilità e la segretezza nelle comunicazioni tra persone, l'impianto del testo resta comunque intatto. Su questo punto, su questo, con questi ingredienti, Alfano dice: siamo pronti a vedere il PD se è pronto al dialogo. Tanto che Il Fatto titola: grande riforma, il bavaglio. Il bavaglio è il bavaglio delle intercettazioni. C'è Bruno Tinti, l'ex magistrato, che ora è anche però scrittore per Il Fatto e anche una quota, credo, nella società, nell'editore del Fatto. La fabbrica dei reati, Berlusconi scatena l'offensiva contro le intercettazioni e fa tutti degli esempi di dove, se passasse questa legge, bisognerebbe interrompere le intercettazioni in casi di violenze sessuali, di furti in abitazione. Cioè, dice Bruno Tinti, ecco, se passa la legge così com'è, come i magistrati avranno le mani legate con le intercettazioni. Il problema è che Alfano chiede al PD di dialogare, ma il tema è questo: ma il PD ce la farà? Perché questo è l'altro grande tema politico. Come detto, Repubblica titola così: nel PD assedio a Bersani. Pensate che, se volete, perfino la Gazzetta dello Sport, no, non mi sono impazzito, perfino la Gazzetta dello Sport, Gene Gnocchi, nel suo rompipallone quotidiano, sentite che dice: caso Mourinho Balotelli, Moratti sbotta, se vogliono continuare a litigare si iscrivano al PD. Cioè, la vicenda del PD è ancora quella lì. Sarà il terzo segretario dopo Prodi, dopo Veltroni, dopo Franceschini, Bersani a saltare? Contro Bersani 49 senatori del PD, leggo dal Sole, ma lo troviamo in tutti i giornali, hanno preso carta e penna e hanno detto: caro Pierluigi Bersani, così non va, bisogna cambiare. E quindi il PD è in fermento, tanto che Walter Veltroni, in un'intervista a Repubblica a Curzio Maltese, ecco come parla: bisogna parlare chiaro, è andata male, ammettiamo la sconfitta. Il partito può rinascere se è aggressivo e popolare. Abbiamo perso, siamo fermi, è vero, al 26%, ma nel 2009 Berlusconi era in piena luna di miele con l'elettorato, mentre nell'ultimo anno è successo di tutto. Berlusconi è stato travolto da scandali personali, la crisi ha massacrato l'economia, insomma i sondaggi lo davano in forte declino e il PD non abbiamo strappato un voto. Perché? Già, perché, gli chiede Curzio Maltese, perché dobbiamo incarnare un'alternativa credibile nella società, parlare di precarizzazione non solo dei giovani, riconvertirci all'ecologia dell'economia, contro l'evasione fiscale, dire no alle province in maniera dura e secca, semplificare la burocrazia, la legalità, la difesa dell'istruzione pubblica, liberare la RAI dai partiti. Questo dobbiamo dire, dice Veltroni, e soltanto dopo dobbiamo vedere se Casini o Di Pietro sono d'accordo con noi. Poi dice Veltroni: l'esperienza di Vendola è straordinaria, senza lui saremmo 7-6 per la destra, confinati in un enclave, è stato un grande successo personale. Poi insomma insiste ancora Veltroni, dobbiamo partire noi all'attacco, dire fine delle province, nuova legge elettorale, riduzione dei parlamentari, del costo della politica, più forti poteri al Premier per garantire una democrazia che governi, ma più forti poteri al Parlamento per impedire derive monarchiche. Insomma, bisogna essere aggressivi e popolari. Veltroni dice, insomma, ammettiamo la sconfitta. Ce la farà Bersani? Sopravvivrà Bersani? Intanto Libero ci fa sapere, come detto, è il titolo del giorno, al PD non piace la gnocca. Siccome la maggior parte dei consiglieri sono stati votati, sono uomini, al PD non piace la gnocca per Libero. Strage di mezzi busti al TG1. È un titolo drammatico quello che ci accoglie sul Riformista in prima pagina. L'abbiamo sentito che sta succedendo, che il direttore Minzolini del TG1 ha deciso di sostituire alcuni conduttori. Sostituire. Per Repubblica, Minzolini caccia tre conduttori, bufera il TG1. Sono tre conduttori, sono Tiziana Ferrario, Paolo Di Giannantonio e Piero Damosso, che, fa notare Repubblica, casualmente sono tre che non hanno firmato un documento all'interno della redazione del TG1 a sostegno di Minzolini dopo il famoso caso Mills, no? Quando ci fu un titolo in cui del TG1 assolto Mills invece che prescritto Mills. È solo che Maria Luisa Busi, volto noto del TG1, rincara la dose in un'intervista a Repubblica. Sì, è una rappresaglia, mai visto osare tanto. Maria Luisa Busi era quella che quando andò all'Aquila e fu contestata da alcuni dicendo lei è al soldo del direttore Scodinzolini, come lo chiamano i detrattori di Minzolini. E Maria Luisa Busi non è che aveva difeso il direttore, aveva detto io rispondo per me stessa e gli altri rispondano per sé. E oggi rincara la dose, è una rappresaglia questa sostituzione. Questa intervista a Leandro Palestini, ed è molto, molto dura. Il clima in redazione è insostenibile. In 21 anni ho visto altri direttori riconducibili all'area culturale del centrodestra, ma nessuno aveva mai osato tanto. I consiglieri della RAI che hanno parlato di direttore stalinista fanno bene a usare parole forti. La verità è che il nostro è sempre stato un giornale in cui la dialettica era sempre rispettata. Mi chiedo come invece ora si possa dire il contrario a chi ci accusa di essere un TG schierato. È sotto gli occhi di milioni di spettatori. Peraltro poi la stoccatina, peraltro sempre meno. Come dire, stiamo andando anche male nei dati. Insomma, Maria Luisa Busi è scattata una rappresaglia, il Fatto Quotidiano ci punta tantissimo, com'è che mette in prima pagina rappresaglia al TG1, Minzolini annuncia, è solo l'inizio. Vabbè, TG1 in fermento, ce ne faremo una ragione. C'è il nuovo fronte che è stato aperto, il primo fronte che è stato aperto dal neopresidente della regione Piemonte, Cota. L'abbiamo sentito nel GR. Arriva la RU486, cioè la pillola abortiva, quella che è diciamo, l'alternativa usata in diversi paesi nel mondo, ma in Italia sta arrivando, arriva proprio in questi giorni, l'alternativa all'aborto chirurgico. Arriva la RU486 e Cota dice la lascerò nei magazzini. Ora, com'è possibile, visto che ha percorso tutto l'iter, questo farmaco, sarebbero finite le polemiche, dovrà essere distribuita solo negli ospedali, cioè con ricovero ospedaliero. E invece no, perché anche il sottosegretario alla salute Eugenia Roccella fa sapere che c'è un inghippo tecnico-economico, cioè la Roccella dice effettivamente tecnicamente il presidente delle regioni, insomma l'iter è concluso, il farmaco è approvato, ma tecnicamente i presidenti delle regioni potrebbero rallentare o anche impedire che il farmaco arrivi negli ospedali, non facendolo introdurre nel prontuario regionale. Insomma, qualcuno dice, fatta la legge, trovato l'inganno, è il tentativo di bloccare la RU486, sebbene sia già arrivata in Italia. Staremo a vedere anche questa. Voglio andare ora sul giornale, perché come detto, oggi Vittorio Feltri fa una provocazione, un'apertura, shock. Preti pedofili, allarme a Milano. Luca Fazzo, cronista dei giudiziari, intervista Pietro Forno, che è procuratore aggiunto a Milano, a capo del pool che indaga su reati sessuali. Sentite l'intervista. Parla di reati sessuali che coinvolgono sacerdoti a Milano. Quanti sacerdoti ha inquisito negli anni per reati sessuali? La lista non è corta, purtroppo, dice Forno. L'atteggiamento delle gerarchie? Devo dare atto che all'inizio non mi sono stati messi ostacoli, ma poi, in tanti anni che ho trattato l'argomento, non mi è mai, e sottolineo mai, arrivata una sola denuncia né da parte di vescovi, di singoli preti, e questo è un po' strano. Ma i vescovi non hanno l'obbligo di denunciare. È vero, dice Forno, non sono un pubblico ufficiale. Non sono pubblici ufficiali, ma c'è un obbligo morale, direi morale, ma questo non avviene mai, ripeto, mai. Eppure io sono convinto che loro sappiano molto più di quello che sappiamo noi. E poi, insomma, l'accusa fortissima, perché sono così numerosi questi casi? Sentite il procuratore Forno che dice: io ormai ho un dubbio, e parlo solo di dubbio, non posso avere riscontri diretti. Credo che ci siano sacerdoti che scelgono di fare i sacerdoti per abusare, perché è oggettivo che nella scelta del sacerdozio c'è un'enorme facilitazione nell'avvicinare le vittime. Eppure compiono tutto il percorso formativo fino a venire messi a contatto con i ragazzi. Questo pone un problema, ma nessuno se n'è mai accorto prima. Dov'è il discernimento spirituale che dovrebbero esercitare coloro che li scelgono? Non hanno osservato il loro comportamento, le loro tendenze, le modalità con le quali si rapportano ai giovani? E poi, insomma, anche qua l'omertà, dice, si limitano sempre le gerarchie ecclesiastiche a spostare, quando ci sono delle voci su qualcuno, da una parrocchia all'altro. Come se lo spiega? Lo chieda a loro, alla gerarchia ecclesiale. Insomma, durissimo. Preti pedofili, allarme a Milano, e Vittorio Feltri fa un editoriale nel quale dice: non si deve generalizzare, per carità, ma l'intervista che vi proponiamo è scioccante e tutti dovrebbero pagare, anche i sacerdoti. Ci fermiamo qui. Devo dare quest'ultima notizia perché è spettacolare. EasyJet, la compagnia aerea, ha detto: appena atterreremo sui nostri aerei metteremo a tutto volume la canzone Italia amore mio. Ebbene sì, quella del principe di Sanremo. Perché, attenzione, la compagnia? Perché il nostro business model è quello di accelerare l'evacuazione dei passeggeri dall'aereo, e siamo sicuri che appena metteremo Italia amore mio tutti i passeggeri si fionderanno verso le uscite utilizzando anche i finestrini se possibile. EasyJet dunque metterà questa canzone sugli aerei. Ora, la notizia è da comunicato stampa di EasyJet. Vi segnalo una cosa: oggi è il primo aprile, secondo me qui un bel pescione EasyJet ce l'ha fatto, chissà.